Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, ci siamo. Io sto facendo un po' di confusione perché ho davanti due tablet, un telefonino, la scaletta, insomma, sto facendo un po' di confusione con i cavi. Adesso sistemo tutto, ma intanto benvenuti al sabato del villaggio. Come sempre il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, nelle nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, come sempre, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Mentre sistemo tutto quello che ho davanti, vi do tutti i nostri numeri, le nostre coordinate: 349-238-6666. Ma tanto so che l'avete memorizzato nel vostro smartphone, nel vostro telefonino, è il numero per mandarci SMS o anche WhatsApp. Però se preferite usare Twitter, io sono anche lì, chiocciola Marta Cagnola, cancelletto ISDV come il sabato del villaggio, e vi rispondo anche in tempo reale perché sono abbastanza multitasking. Ma scopriamo i temi della prima ora che passeremo insieme. Abbiamo scelto un filo conduttore perfetto per il fine settimana, una scelta classica. Campagna o città? Ci è venuto in mente perché, beh, sentirete tra poco il nostro primo ospite, ne sono molto molto molto orgogliosa. Ma avremo anche la tecnologia con Enrico Pagliarini, l'appuntamento con il gastronauta questa settimana, la vera cucina nelle trattorie in campagna, appunto. Il Giro d'Italia, perché sta per partire, avremo dei consigli davvero unici per seguirlo anche in prima persona, sentiremo tra poco. Ma prima... lui è il numero uno della settimana e ci è venuto a trovare oggi, al sabato del villaggio. Il sorriso regalato a quel passante, un paragrafo di una pagina qualunque. La storia è un equilibrio tra le fonti, il disegno che compare unendo i punti. Allora, una foto bellissima, una campagna che proprio mette pace tra il cielo con un po' di nuvole, ma tutto sommato è azzurro, il verde, viene proprio voglia di essere in questo posto che ha fotografato per la copertina del suo album Nicolò Fabi. Benvenuto Nicolò. Eccoci, ciao. È vero che la foto che hai fatto col cellulare tipo dal divano di casa, più o meno? Sì. No, che più o meno, sì, esattamente, ma in realtà l'avevo fatta altre 4-5 volte, in altri orari della giornata era meno bella. Ora, la fortuna è che lì c'era, credo fossero le 7:30-8 di mattina, e c'era un cielo particolarmente bello, però non è che è una vista straordinaria, è una vista come spesso trovi in campagna, semplicemente con degli alberi. Non l'ho fotografata perché fosse bellissima, l'ho fotografata perché stava davanti ai miei occhi per 2 mesi mentre io suonavo. Allora, ti sei chiuso nella tua casa di campagna e poi ti chiederò qualcosa di più per realizzare una somma di piccole cose. Sono impazzita quando ho letto il titolo dell'album e ho sentito la spiegazione, cioè frazionare le cose per capirle meglio. Io quando ero piccola e arrivavo il primo giorno di scuola, vedevo i libri e dicevo: ma io non potrò mai studiare tutte queste cose perché è troppo. E poi capivo che invece pagina per pagina le cose si studiano, e quindi giorno per giorno la vita si affronta tutto e si capisce meglio. Sì, diciamo che in tantissime attività il riuscire a trovare le unità più piccole ci può aiutare, sia nei grandi godimenti, così come anche invece nelle grandi difficoltà. Spesso insomma ci diciamo che questo muro invalicabile, enorme, nel momento in cui lo dividiamo in difficoltà più piccole, in unità minori, risulta tutto sommato più semplice da scavalcare. La semplicità è uno dei fili conduttori di questo lavoro, denso di filosofia agricola, che è anche il titolo della quarta traccia. Però mi piace la filosofia agricola. È una tua corrente di pensiero. Avevano sempre, prendendo per i fondelli, diciamo così, spesso anche in gioventù chiamato filosofo agricolo, ma un po' perché da una parte filosofeggiavo perché mi ha sempre divertito così anche indagare, investigare e anche giocare un po' con parole e concetti. Però allo stesso tempo mi è sempre piaciuto farlo più in condizioni e in ambientazioni naturali, non in dimensioni più speculative, accademiche o salottiere, più con quella sana filosofia di provincia, che è quella che si consuma in questi lauti pasti in cui si filosofeggia, ma con con i piedi ben attaccati per terra. E ci sono dei tuoi colleghi che vanno a cercare le ispirazioni in capo al mondo. Tu le hai trovate a Campagnano? Campagnano è un ombelico del mondo. Campagnano è una meravigliosa, ridente località della campagna nord di Roma, verso Viterbo. Tutto questo dopo il delirio bellissimo del trio con Gazzè, certo. Silvestri, tra l'altro, che ha portato benissimo a tutte e tre, perché avete fatto dei gran dischi completamente diversi l'uno dall'altro. Vuol dire che il circolo della creatività ha fatto benissimo a tutti e tre. Questo è un insegnamento, insomma, per tutti, il fatto che comunque separandosi da alcuni automatismi, da un binario più o meno già prestabilito, stimoliamo la nostra creatività, sentiamo anche la mancanza di tornare a quel momento, visto che per 2 anni siamo stati molto insieme. Non abbiamo fatto solo un disco, una tournée, 2 viaggi in Europa, in Africa, insomma è stato da tutti i punti di vista un'esperienza ricca e piena, e quindi credo che ne abbiamo sia beneficiato in termini di stimoli, e poi credo che anche a livello di identità ci siamo allontanati, cioè una volta confusi insieme, fusi insieme, credo che adesso i nostri dischi non sono mai stati tanto diversi. Certo, sono proprio anime diversissime. Sì, sì. Sì. Preferenziali, hanno vinto le metropolitane, hanno vinto le rotonde, i ponti a quadrifoglio, alle uscite autostradali, hanno vinto i parcheggi in doppia fila, quelli multipiano, vicino agli aeroporti, le tangenziali alle 8 di mattina e i centri commerciali nel fine settimana. Hanno vinto le corporazioni infiltrate nei consigli comunali, i loschi affari dei palazzinari, gli alveari umani e le case popolari, i bed and breakfast affittati agli studenti americani. Hanno vinto i superartici a 3.000 euro al mese, le puttane lungo i viali, sulle strade con solari. Hanno vinto i pendolari, ma ha perso la città, ha perso un sogno, abbiamo perso il fiato per parlarci, ha perso la città. Ha perso la città. È un pezzo tosto sulla nostra vita di tutti i giorni. Sì, molto evidente se devo giudicare lo sguardo delle persone che incontro la mattina in mezzo al traffico, cioè sono sguardi che parlano tanto, cioè, ci guardiamo a vicenda, no? Ai semafori, prima di combattere per quei 10 centimetri, prima di suonare a una frazione di secondo dal verde, parlano di una umanità molto stressata, e poi con una dose di aggressività l'uno nei confronti dell'altro mica da ridere. E quindi ovvio non tutti hanno la possibilità di rinunciare, di uscire dal meccanismo, dal gioco, altri sì e hanno paura di farlo. Altri ce la fanno, e non semplicemente i benestanti che se ne vanno perché tanto non hanno bisogno di lavorare. No, conosco benissimo tante persone che hanno fatto delle scelte professionali a volte azzardate, però di rinunciare magari all'attività all'interno della città per trovare il corrispettivo magari in paese, in luoghi dove magari c'è un guadagno potenzialmente minore, però anche le spese sono minori, anche l'atmosfera di fondo è più serena, anche il dialogo con gli altri è più semplice. Insomma, le città per tanti aspetti non hanno favorito l'incontro delle persone, ma lo scontro sicuramente, l'incontro non lo so. Le soluzioni, abbiamo due soluzioni, una somma di piccole cose, o un bell'asteroide si riparte da zero o una somma di piccole cose. Io ogni tanto per l'asteroide però sì, tifo. Sì, certo, voglio. No, ma è chiaro che le frasi delle canzoni hanno un aspetto anche provocatorio, non so, non è tutto così semplice o alternativo. Però è vero che anche le rivoluzioni, i cambiamenti o hanno bisogno di una esplosione, di una scossa che in qualche modo ci metta di fronte a, no? All'inevitabilità del cambiamento, e spesso solo le grandi paure lo fanno. Quindi io spero che non ci sia bisogno della paura quella finale, cioè dell'asteroide, certo, che sta per arrivare e quindi a questo punto vale tutto. Ma invece un impegno un pochino più individuale, che si spera che sommato agli altri esempi individuali possa creare una piccola onda. È ovvio che la sicurezza che questo avvenga non c'è, però o ci mettiamo a fumare una sigaretta mentre aspettiamo la tramvata finale, o qualcosa sa da fa. Che dici? Anche secondo me è una chiamata all'azione, anche se io speravo che Vince chi molla fosse finalmente un inno all'arrendersi, che fosse una scusa per la mia voglia di non fare niente ogni tanto. No. E no, non è esattamente no, quello, no. Anche se potenzialmente potrebbe esserci anche quello, perché insomma è una canzone abbastanza definitiva, nel senso che assomiglia all'ultima canzone che uno scrive, quindi è anche... Beh, è l'ultima del disco però. Per ora è l'ultima del disco, credo che sarà, non lo so, ho la percezione che sarà un po' l'ultima di un certo modo di scrivere canzoni che fino adesso per 35 anni ho fatto, cioè andando a scavare un po' in profondità su certi meccanismi umani, nei comportamenti, nelle sensazioni, credo che oltre quella canzone non si possa fare veramente più niente. Per quanto mi riguarda, quindi sarà anche interessante capire in che modo e dove direzionare la creatività da quella canzone in poi. Ora dico, è troppo presto, insomma, adesso vorrei godermi anche questo momento, però quindi nelle canzoni ho in qualche modo appuntato tutte le tappe della mia vita e cercando di riuscire a scrivere delle canzoni che potessero veramente mettere a nudo alcuni momenti che solamente nelle canzoni si raccontano. E credo che quella sensazione raccontata nella canzone Vince chi molla sia l'ultimo stadio possibile di avvicinamento all'essenziale per quanto riguarda il mio linguaggio. Certo. Dopo quello dovrei, credo, presentarvi delle risonanze magnetiche e degli elettrocardiogrammi, sì, per andare oltre. È vero, oltre, sei hai raccontato... Oltre quello, sì, cioè sono le analisi del sangue, sì, ecco, insomma, glicemia... che è bello, però magari un pochino artisticamente meno interessante, chissà, forse. Chissà, non lo so, chissà, perché anche ognuno ha le analisi del sangue che artistiche, ne sai. Certo. La bilirubina. C'è una nota canzone, la bilirubina, c'è. Appuntamenti: 18 maggio da Assisi parte il tour, e poi 21 maggio Napoli, 22 maggio Roma, 23-24 maggio all'Auditorium di Milano. Io li sto leggendo dal tuo sito, quindi dovrebbero essere giuste le date. Perbacco. Se no hai sbagliato il sito, se no hai sbagliato il sito. Impossibile. Ecco. Cascano delle teste, esatto, se fosse sbagliata la cosa qua. Io li sto leggendo da nicolafabi.it. Con che spirito porti in tour una cosa così tua? Ma in realtà negli ultimi anni questi concerti che faccio sono state sempre delle piccole così riunioni familiari un po' allargate, perché per fortuna la mia famiglia si è allargata a quel punto di vista. Sono stato per certi aspetti anche, ahimè, controvoglia, abituato a condividere con gli altri anche pezzi di intimità molto forte, con un grado di commozione presente in sala sempre enorme, quindi da quel punto di vista sono preparato, non sarà la prima volta che succede. La differenza questa volta è che avrò dei compagni di palcoscenico diversi. Negli ultimi anni ho sempre suonato con un gruppo di amici con cui ho fatto anche concerti molto difficili emotivamente, nei momenti più importanti della mia vita c'erano loro, e che questa volta non ci saranno perché giustamente hanno anche altre attività e non ci siamo incastrati nei tempi e nei modi. E quindi avere accanto delle altre persone farà sì che ci sarà un rinnovamento inevitabilmente. I ragazzi con cui sono adesso, che sono più giovani, che non hanno assistito, non hanno vissuto con me certe cose, reinterpretano queste canzoni mie in una maniera forse più libera da, no? da ricordi o da rivisitazioni. Per me è un modo di nutrirmi tantissimo della loro voglia, del loro entusiasmo, e credo viceversa da parte loro quella di in qualche modo vivere anche qualcosa di diverso, insomma, rispetto a quello che hanno vissuto fino adesso. Facciamo finta che chi fa successo se lo merita, in questo caso secondo me se lo merita davvero, Niccolò Fabi, una somma di piccole cose è bellissimo. Grazie Niccolò per essere stato con noi. Gli applausi, quel tasto applausi. No, il tasto applausi lo vogliamo. Grazie Niccolò, grazie a presto. A prestissimo, ciao. Il sabato del villaggio. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno d'una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta, pedala, più in fretta, pedala, pedala, cantava Frankie I Energy qualche tempo fa. Siamo pronti per pedalare, non solo per chi vuole andare come sempre in bicicletta nel fine settimana, il tempo comincia a essere più clemente, almeno qui a Milano oggi è veramente quasi tornato primaverile dopo quell'inizio di primavera che poi ci ha fregato perché invece era tornato il freddo. Non so dove siete voi, com'è questo fine settimana, ma non solo, dicevamo, per chi vuole andare a pedalare durante il fine settimana, ma anche per chi aspetta ardentemente come me il Giro d'Italia. E siccome ci siamo quasi, ho rapito in redazione a Radio 24 il nostro collega storicamente più appassionato e più esperto di ciclismo, possiamo dire così. Ciao a Dario Ceccarelli. Ciao Dario. Ciao Marta, ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, mi ha rapito, io volevo andare a dormire. Sì, lei, perché ha fatto l'alba questa mattina, ho detto no Dario, non andare a casa. Così, allora sto qui pedalando. Quanti caffè hai bevuto? 5-6, mi sono dopato anch'io perché ci vuole un po' di doping, diciamo la verità. Di caffè naturalmente. Io, anzi, sono contrarissimo al doping, però un caffè è sempre un buon caffè. Si può. Dario, quasi ci siamo al Giro d'Italia? Sì, ci siamo, mancano 6 giorni perché partirà venerdì prossimo e partirà addirittura dall'Olanda, non Olanda. È la prima volta. Beh, terra di biciclette. Terra di ci biciclette, sta. Tra l'altro è un posto bellissimo perché è vicinissimo a un parco nazionale, è un polmone verde privato, ma che a farlo da cicloamatore in bicicletta è una cosa spettacolosa. Io lo dico perché l'ho fatto un po' di anni fa. Un e po' allora di anni fa l'hai fatto, mi bello. Mi vanto un po' adesso qui in diretta. Beh, giusto, scusa. Avevo anche mio figlio che aveva 5-6 anni e me lo portavo dietro nel sellino. Beh, che atleta. Che papà atleta. Adesso non potrai più farlo. Solo perché il figlio ormai è molto grande. Certo, pesa 85 kg. Chiaramente. Ecco. No? ed è una bella partenza perché l'Olanda è la terra così, delle biciclette, dei cavalli, perché lì è anche una zona di puro sangue. E poi si ritroveranno tutti lì a vedere il Giro d'Italia per 3 giorni, perché sarà da praticamente il venerdì, sabato, domenica, e lunedì si torna in Italia addirittura in Calabria. Per cui, quindi dall'Olanda alla Calabria? Sì, con un giorno di riposo in mezzo, il lunedì sarà. Però clima diverso. Clima diverso, sì, poi il clima è pazzo, per cui tutto può accadere. Però ultimamente c'era stata la Liegi-Bastogne-Liegi, classica del nord, con la neve, quindi possiamo anche immaginare che il passaggio possa essere piuttosto brusco. Ecco. Dimmi subito chi sono i favoriti. Ecco, i favoriti, così ci togliamo il pensiero per gli specialisti. Sì. Allora, primo tra i favoriti è il nostro Vincenzo Nibali, di cui possiamo anche dire bene, 31 anni, siciliano, detto lo squalo perché lui è nato nella Messina e perché addenta gli avversari, questa è così l'immagine simbolo. E lui ha già vinto un Giro d'Italia nel 2013 e ha vinto anche un Tour de France e una Vuelta, quindi è un trittico eccezionale per un corridore, pochissimi l'hanno fatto, ci è riuscito Felice Gimondi quando era la sua epoca. Poi c'è Alejandro Valverde, 36 anni. Gli spagnoli arrivano. Questo qua è uno spagnolo strano, perché è una vecchia lenza, nel senso che ha 36 anni, da anni si dice prima o poi lascerà il ciclismo, in realtà è sempre lì. È la prima volta che punta al Giro d'Italia, però è un formidabile campione da classiche, secondo me non ha proprio il fondo per arrivare a vincere un Giro, perché ci saranno tappe molto faticose, come spiegheremo tra poco. Sì, però dice, è una vita che aspetta, deve proprio vincere adesso, che deve vincere Nibali adesso. Poi Valverde è un tipo particolare, ama Roma, ama la pasta a cacio e pepe, è uno che insomma ama la bella vita e qui mi fermo. No, e qui abbiamo capito come non farlo vincere. Esattamente. Ecco. E poi il terzo. Anche perché quando dici la bella vita credo di aver già capito cosa, il particolare. Buono, il cattivo, il terzo il bello è Mikel Landa, basco, 26 anni, anche cattivo, perché è uno che è il campione rampante. Fino all'anno scorso correva con Nibali nella Astana, adesso è il capitano del Team Sky ed è uno che può lasciare il segno, perché in salita è fortissimo, non è altrettanto forte nel cronometro e questo può essere il terreno dove perde dei secondi preziosi. Ecco. E Aru, scusa, che andiamo al Tour de France perché nella Astana hanno pensato che non era il caso di mettere due puro sangue, due campioni così che finirebbero per insomma a darsi addosso uno con l'altro inevitabilmente. Difficile mettere due a quel livello a correre assieme una grande. Quindi Nibali Giro, Aru Tour. E Aru Tour, che magari può dire la sua addirittura, chissà. Infatti aspettiamo è la grande promessa del futuro, diciamolo, perché è molto più giovane, ha 24 anni se non sbaglio ed è uno lanciatissimo. Infatti Nibali comincia a soffrirlo un po', perché questo comunque non gli dà ascolto. Nibali è della vecchia scuola, siciliano, silenzioso, invece questo qua è uno che è estroverso, è uno che non ci pensa due volte a buttarsi a dei campioni se ne fischia, e lì si vede il talento, perché il campione vero non ha timore di nessuno. Il ciclismo ha bisogno un po' ancora di questi campioni per ritrovare l'amore del pubblico, anche dei media. Sì, e per non parlare sempre di doping, che purtroppo è uno dei temi ricorrenti, o di motorini da mettere nel telaio. Questa è bellissima, questa squalificata perché aveva nascosto un motorino nel telaio. Vabbè, fantastico. Tutti a pedalata spinta, come a Milano che ci sono le biciclette a noleggio. Non è poco, perché dà quel 5% in più che in una grande salita, magari con 5 gran premi della montagna, quel 5% diventa poi condizionante. Beh, viva la faccia, devo dire, questa ci ha provato, fantastica. Beh, intanto fammi salutare Riccardo e Cristiane, che ci hanno mandato un WhatsApp dal Brasile, perché loro abitano in Brasile e ascoltano ogni giorno Radio 24. Allora, raccontiamo un po' a Riccardo e Cristiane, che magari riusciranno a vedere il Giro d'Italia dal Brasile, non lo so se viene trasmesso, le tappe, un po' cosa si potrà vedere, anche perché il nostro tema città e campagna è bello. A me piace tantissimo guardare il giro anche per vedere banalmente i paesaggi. Io credo che in Brasile si vedrà, perché ci sono collegati col giro 192 paesi. Si calcola un audience di oltre 700 milioni di telespettatori. Per cui io credo che il Brasile credo che abbia anche dei collegamenti sicuramente col Giro d'Italia. Aggiungo un'altra cosa sul turismo: pensa, l'impatto economico del Giro è stato calcolato in 35 milioni di euro, soprattutto con incrementi a lungo termine per il turismo, cioè le tappe più significative con l'elicottero che fa vedere tutte le particolarità eccetera, poi dopo vengono, come dire, metabolizzate dai telespettatori, che dopo dicono: ma perché non andiamo in quel posto lì? Ecco, bello, rimane impresso e uno poi infatti, ci va. Infatti, se noi fossimo un po' più furbi su questo aspetto, dovremmo giocarci un po' di più per dare impulso ottimo al nostro turismo. Ottimo spunto. Lo dirò a Renzi quando lo incontri, Matteo, glielo dici. Dario, allora, tappe da non perdere? Guarda, allora, dicevamo dell'Olanda, vabbè, quelle le vedranno gli olandesi, noi in televisione, vabbè. Sì. Io ne ho segnate qualcuna qua. Allora, diciamo tappe a 5 stelle. Dunque, la prima è la maratona delle Dolomiti, che è il sabato 21 maggio. Perché si va da Alpago a Corvara, 210 km, si fa il Passo Sella, il Giau, il Passo Valpurola e sono 5.300 metri di dislivello e 6 salite mozzagambe, 6 gran premi della montagna. Qui è la prima, c'è il primo, come dire, si fa la cernita di chi c'è e chi non c'è. Ah, ecco, okay. Qui only the brave. Si dice, non si sa ancora chi vincerà il giro, ma si sa chi non lo vincerà. Ecco, ok, è questa. Sì. Ed è bello andare su a vedere da spettatori, sì, perché arrivano piano. Sì, esatto. Fanno io purtroppo fatica. Spesso queste tappe le ho viste da giornalista, che è un'altra cosa, perché sei costretto poi a inseguire la corsa. Quando sei in macchina devi star davanti ai corridori e questo vuol dire che quando tu arrivi in cima alla salita, poi ti devi fiondare giù nella discesa il più velocemente possibile, perché sennò ti raggiungono, perché loro vanno a 90 all'ora. Per cui fai con l'autista, o anche all'epoca eravamo più poveri, dovevo guidare io e mi devo fiondare giù per andare in sala stampa facendo questi tornanti, così rischiando tutto e soprattutto una parte della mia vita, ma degli altri. Ecco, certo. E questo così. E quindi questo è il primo appuntamento, lo ripeto, che è appunto il venerdì, sabato 21 maggio. Un altro appuntamento da non perdere è venerdì 27 maggio. Qui si va in Piemonte, c'è la Pinerol Risul di 161 km. Ecco, qui c'è la Cima Coppi. Cos'è la Cima Coppi? È la cima più alta del Giro d'Italia. E in questa volta è il Colle dell'Agnello, 2744 metri. Ecco, è una cosa da mozzafiato. Anche questa l'ho fatta all'epoca quando lo seguivo come cronista e pensa che quella volta lì, siccome la neve a maggio, a giugno c'è ancora, ci fu una slavina. Ah, beh, pericoloso. Sì, perché questa è una pista, non è quasi, si passa una macchina per volta. E ci fu una piccola slavina che arrivò in mezzo alla strada e alcune macchine furono prese dentro. Incredibile. E quindi fummo bloccati tutti. E il giornale mi disse, Dario, ma fai un pezzo. E mi misi, erano i primi computer. Mi ricordo che ancora che misi assieme, con un po' di paura, perché tutto sommato va bene essere sul pezzo. Però anche sotto il pezzo. Ecco. Ma quindi, valanghe a parte, si può salire ad assistere alla gara? Sì, si può salire se si va molto tempo prima, cioè almeno un giorno o due prima. Infatti i grandi appassionati, gli esperti, i suiveur, quelli di vecchia data, vanno lì con questi caravan, si portano dietro tutto quanto serve per i picnic, quanto serve per fermarsi a dormire, e aspettano lì che arrivino i corridori. Naturalmente è uno spettacolo nello spettacolo, perché tu vedi arrivare questi corridori che si trascinano, è una specie di calvario lì, perché è una processione di gente che cerca, certo. e questi che li incitano, a volte addirittura li spingono, a volte fanno cose che non si però dovrebbero fare. È un popolo così, è il bello e il brutto del ciclismo, cioè che va in mezzo alla gente senza che si paghi un biglietto. E quindi la gente si ritiene, come dire, un po' più autorizzata a stare ancora più vicino, e questo però a volte produce qualche controindicazione, qualche problema. Prima di chiederti un'ultima tappa da non perdere, magari di andare a visitare, voglio sentire se è un appassionato di Giro d'Italia, il nostro Enrico Pagliarini. Ciao Enrico, ci sei? Buongiorno, sì, ciao, ciao. Come Buongiorno. Se fossi in mezzo a noi, ma in chissà dove sei in questo momento. Anche sono perché sulle strade del Giro, anche se però del Giro proprio devo dire mi interessa mica tanto. Volevo chiedere io a Ceccarelli una cosa, perché lui dice, io l'ho fatta questa, ma l'ha fatta in macchina, in moto, ma in io l'ho specificato con grande onestà, onestà, non mi hai ascoltato bene, io ho detto, ero in macchina e addirittura a volte in discesa dovevo andare giù come un pazzo, perché i corridori in bicicletta vanno più veloci delle macchine, per cui tu ti trovi. Sì. Te li vedi dietro, sai, come Gatto Silvestro quando ti arriva addosso. Ecco, io ero così e quindi io mi immagino Ceccarelli in macchina. Devo dire che probabilmente, anche se uno non è appassionatissimo di ciclismo, ci sono alcune cose molto belle del giro. Allora, la prima è che si vedono alcune delle parti più belle d'Italia, esatto. E quindi queste sicuramente molto belle. Probabilmente se uno avesse la pazienza di fare quello che diceva Dario, cioè di andare un giorno prima in certe a vedere certe tappe, probabilmente si innamorerebbe del giro, anche se non è molto appassionato. Hai detto benissimo, sì, perché è un clima, non so bene come dirlo, c'è la montagna, c'è il modo di stare assieme, di bersi un bicchiere di vino e di passare una giornata bella che assieme bella, e questo ti, come dire, cancella tutto il resto e poi ti fa tornare la voglia di essere lì l'anno successivo. Dario, al volo, anzi in volata, l'ultima sì. tappa da non perdere, magari da andare guarda, a vedere, ecco, così a bordo strada? Ecco, ritorniamo un po' indietro. Domenica 15 maggio si va è il classico del Chianti, cioè da Radda in Chianti a Greve in Chianti. È un cronometro di 40 km nella terra del Chianti, tutta ondulata. Ovviamente anche questa ondulazione fa pensare al vino, perché però i corridori invece saranno anche dritta, la vedi. I corridori invece se la dovranno sfangare, perché 40 km così fanno la differenza. E anche qui si capirà chi può aspirare la maglia rosa, perché i tre che dicevo prima, i tre favoriti, uno dei tre potrebbe perdere molto terreno, ad esempio Landa, e quindi per lui sarà importante non perdere secondi. Grazie a Dario Ceccarelli, che non è andato a fare il riposino, adesso lo mandiamo a casa perché ha fatto l'alba questa mattina. Torni a parlare con noi di ciclismo quando vuoi, sono sempre a disposizione. Grazie a Dario Ceccarelli. Enrico, rimani in collegamento con noi, una breve pausa, poi parliamo di tecnologie. Il sabato del villaggio. Country boy, ain't got no shoes. Country boy, ain't got no blues. Well, you work all day while you're wanting to play in the sun and the sand with the faces tan. At the end of the day when your work is done, you ain't got nothing but fun. Country boy, ain't got no wills. Country boy, you don't owe no bills. Country boy, ragazzo di campagna, cantava Johnny Cash. E ci colleghiamo, torniamo a collegarci con un ragazzo di campagna, perché lui abita in campagna, abita in un posto bellissimo. Se è in campagna in questo momento. Sì, qua quasi, diciamo, più o meno. Vicino alla campagna. Diciamo sì, una piccola città che ma questo, è ai ma bordi questo della campagna. Country boy è un ragazzo di campagna o il ragazzo del country inteso come la musica country? Beh, potrebbe essere cosa, boss, oppure come ragazzo di campagna inteso come Renato Pozzetto, che sì. quando arrivava col trattore a Milano, rivisto di recente. Allora, Enrico, io ti ho lanciato il tema, no? Città o campagna in tecnologia. Ho detto, ma che cosa ci potrà mai trovare di città o campagna in tecnologia? Allora, se noi facciamo una media, sì, potremmo dire che quelli che stanno in campagna hanno la vita un po' più difficile e quelli che stanno in città hanno la vita un po' più facile in termini di connessione in generale, connessione ad internet, ma anche di durata delle batterie degli smartphone. Di durata delle batterie degli smartphone. Sì. Allora, non entriamo nell'arcipelago veramente complicato delle connessioni ad internet, perché qui potremmo fare una lunga discussione, ma in generale, insomma, chi sta in campagna ha un po' più di difficoltà, perché sappiamo benissimo, insomma, sono anni che se ne parla dei problemi di connessione. Se guardiamo la telefonia mobile, le cose vanno un po' meglio, anche se la copertura principalmente e prima di tutto viene fatta in città. Però, perché dico che, visto che noi siamo oramai, non tutti noi, però una buona parte della popolazione è dipendente dallo smartphone, è dipendente dalla durata della batteria dello smartphone, perché quando finisce la batteria sono problemi. Sì, perché non è che non possiamo solo telefonare, non possiamo fare un sacco di cose. Esatto. Allora, se uno sta in campagna, e tipicamente in campagna le reti di telefonia mobile sono meno dense, quindi le antenne sono più rare, lo smartphone fa più fatica a connettersi, a collegarsi con l'antenna, e quindi questo incide sulla durata della batteria. C'è il criceto dentro che corre più forte, che macina, ecco. Esattamente. Allora, questo mediamente, però non è sempre detto così, perché allora, ci sono molte città che sono ricche di vecchissimi palazzi, che hanno le mura molto spesse, Ecco, dentro questi palazzi si ha difficoltà sia di connessione, ma questa difficoltà di connessione incide anche sulla durata delle batterie. Quindi non è sempre vero che chi sta in città è più fortunato, però tendenzialmente la rete di telefonia mobile ha antenne più dense, la maglia è più fitta e quindi i telefoni hanno meno difficoltà a collegarsi. Però a me ad esempio hanno detto che a Roma, visto che ci sono molte case d'epoca, vecchie, con i muri spessi, molti telefonini, diciamo così, fanno più fatica. Sì. Cioè in casa prende meno, ma non è un modo di dire una... No, è verissimo, lo si sperimenta, ma insomma a Roma la prendiamo come esempio di città molto, molto antica, ma sono molti centri storici hanno questo tipo di problemi. Allora sicuramente se noi lasciamo lo smartphone in prossimità delle finestre miglioriamo un po' la situazione. Cioè, e ci dura anche di più la batteria a questo punto? Sì, allora a livello di connettività una cosa che potremmo fare in alcune situazioni, soprattutto se dobbiamo telefonare, quindi dobbiamo usare la voce e non i dati e la connettività, se ci vogliamo connettere ad internet, diciamo, potremmo mettere il nostro smartphone in modalità 2G, quindi lasciar perdere le connessioni 3G e 4G che hanno più difficoltà a entrare nei muri e comunque insomma, hanno più difficoltà a connettersi, e devo dire anche che le reti 2G sono un po' più scariche, un po' meno affollate, e quindi per telefonare questa può essere una buona soluzione. Solo per telefonare, per ricevere SMS? Perché per connettersi ad internet insomma dobbiamo essere invece connessi al 3G o ancora meglio al 4G. Allora, connettersi a internet che vuol dire anche ricevere WhatsApp. Ah sì, certo. Allora non è, adesso sto facendo un discorso di media, non è sempre vero perché dovremmo fare un discorso sulle frequenze, dipende a quale frequenza siamo agganciati, però prima di tutto è molto complicato saperlo, poi dipende anche dall'operatore, perché ci sono operatori che sul 4G utilizzano certe frequenze e altre frequenze, e anche l'utilizzo delle frequenze, pensate un po', incide su quanta fatica fa lo smartphone magari all'interno di un'abitazione a connettersi e quindi consuma batteria. Però detto tutto ciò, complicato. Noi mica possiamo cambiare casa per andare vicino all'antenna, no? Ecco, quindi se siamo lontani dall'antenna dobbiamo un po' adeguarci. Che cosa possiamo fare? Allora sicuramente mettere gli smartphone, anche quando sono fermi, che non fanno nulla, vicino a una finestra potrebbe servire a qualche cosa. Magari cercare la parte della casa, se siamo lontani dall'antenna, dove la ricezione è migliore, quindi noi lo lasciamo lì. Poi si possono fare un sacco di cose, allora adesso ne elenco alcune per cercare di consumare meno batteria, quindi cercare di arrivare alla fine della giornata. È vero che gli ultimissimi smartphone sono un po' più efficienti, però quello della batteria è un problema, perché se uno appunto utilizza molto. Allora, la cosa più importante, perché riguarda la parte dello smartphone che consuma più batteria in assoluto, è lo schermo, cioè il display. Ah. E quindi agire sulla luminosità del display. Cioè a noi che piace il display bello luminoso, no? Bisogna trovare il compromesso tra un bel display luminoso per vedere magari le fotografie, però diciamo che se uno deve vedere dei messaggi o poco altro, se il display è anche poco luminoso, chi se ne frega, no? Hai ragione. E quindi mettere il display con una luminosità inferiore può essere una soluzione. Potrebbe essere una soluzione, cioè può essere una soluzione, ed è una soluzione anche quella di impostare il display manualmente e non lasciarlo in automatico, perché l'automatismo attiva dei sensori che consumano batteria. L'automatismo è il sensore che va a vedere quanta luminosità c'è in una stanza e adegua la luminosità dello smartphone in base alla luminosità. Io che lo attivo per risparmiare batteria, sbaglio. Lo attivi nel senso che lo tieni bello... Lo tengo attivo per... cioè devo tenerlo attivato o disattivo? Sì, se vuoi risparmiare batteria lo devi mettere non in automatico, però nemmeno a luminosità 90%. Lo devi mettere a luminosità, allora, che ne so, 30%. Cioè una cosa del genere. Abbasso la luminosità. Tanto sto abbassando. Ridurre il tempo in cui lo schermo rimane acceso quando non lo si utilizza. Sapete che quando uno non utilizza lo smartphone per un pochettino rimane attivo. Allora, se pensiamo che, allora ci sono delle statistiche che dicono che c'è chi mette le mani sullo smartphone 80-100 volte al giorno. Allora pensate che per tutte queste 100 volte, alla fine delle nostre operazioni, lo smartphone rimane acceso per 30 secondi, un minuto, due minuti, dipende da come l'abbiamo impostato. Riduciamo questo tempo, aumentiamo la durata della batteria. Sembrano tutte azioni poco significative, ma se io miglioro dello 0,5% la durata della batteria alla fine della giornata ho fatto 100 azioni, capite che tante piccole azioni servono per mantenere la batteria. Poi, altra cosa molto molto importante, era disattivare le connessioni Wi-Fi e Bluetooth quando non si usano. Ah, Bluetooth sempre, Wi-Fi mi dimentico. Però che questa è un'operazione, richiede di mettere le mani su smartphone, disattivare, riattivare, eccetera, eccetera. Però se uno le tiene attive perché vuole essere tranquillo e non vuole mettere le mani tutte le volte sulle impostazioni dello smartphone, però il risvolto della medaglia è che consuma più batteria. No, è perché sai cosa c'è? Io non tolgo il wifi perché sennò poi mi dimentico di rimetterlo, navigo però in 3G e consumo la soglia. Bisogna essere disciplinati, meno sbadata. Hai ragione anche tu. Allora, ci sono anche delle applicazioni che fanno queste cose, cioè che gestiscono, però poi bisogna imparare a usare queste applicazioni, ma io non le sconsiglio, ma non le consiglio nemmeno. Abbiamo ancora pochi secondi, dici l'ultimo consiglio. Allora, l'ultima, un'altra cosa molto importante, disattivare i servizi di localizzazione delle app quando le app non sono attive. Sì. Allora, molte applicazioni ci geolocalizzano anche se non le stiamo utilizzando. Allora, intanto, perché dare dati di geolocalizzazione a uno che magari sta negli Stati Uniti? Perché diamo dati? L'app tale vuole sapere dove sei. Dove ti trovi, esatto. Non tutte le app permettono di disattivare, però alcune, un certo numero di app permettono di attivare i servizi di localizzazione solo quando sono attive le app. Ovviamente, se uso un servizio di mappe, per forza devo avere la localizzazione attivata, però questa è un'altra cosa, quindi io vi consiglio, andate a smanettare un po' nelle impostazioni e imparate anche tutti questi trucchetti e sicuramente la batteria del vostro smartphone ne beneficerà, sarà contenta. In campagna e in città, facendo la rima, ti saluto con il messaggio che ci ha mandato un ascoltatore o un'ascoltatrice che dice: Pagliarini, temo il giorno che dirà la notizia che anche in Lapponia ci battono in banda larga. Adesso la Lapponia effettivamente è in Finlandia. In Lapponia probabilmente hanno la fibra ottica, però è anche vero una cosa, che in Lapponia sono quattro gatti e noi siamo 60 milioni, abbiamo un territorio complicato. I politici hanno delle responsabilità straordinarie, però è anche vero che insomma, il nostro territorio non è molto molto facile, insomma. Verissimo. Non è tutta colpa da una parte. Grazie Enrico, ci ritroviamo la prossima settimana. Ciao. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, il traffico e poi parleremo con il nostro gastronauta. Il sabato del villaggio. Questa piccola trattoria col giornale, in uno di quei pochi giorni in cui sto bene anche con me, e sto saltando tutte quelle notizie che fanno male, e oggi non ce n'è. Alla trattoria Fabio Concato, che io adoro perché mi mette subito calma e buon umore, ha dedicato proprio una canzone in trattoria, e questa volta ci porta in trattoria il nostro Davide Paolini. Ciao Davide! Ciao, buongiorno. Abbiamo detto città e campagna, come si mangia nelle trattorie? Ecco, io ho scelto la campagna, ma ho scelto la campagna anche perché non solo si mangia bene, ma tutti pensano alle trattorie di campagna come la serie B. Io vorrei ricordare che in Italia ci sono stati dei fenomeni dal punto di vista della ristorazione che sono stati protagonisti. Un certo Peppino Cantarelli di San Boseto, frazione di Busseto, negli anni 70-80 era considerato il guru della cucina italiana, venivano perfino dalla Francia, e ora c'è, diciamo, colui che ha preso il posto abbastanza vicino, anche se nel Mantovano, c'è l'antica, cioè c'è Al Pescatore di Canneto sull'Oglio. È famoso. Che è addirittura è un 3 stelle, ma è considerato un must anche questo. Quindi da tutto il mondo vengono per andare a mangiare al Pescatore, sì. Questo posto veramente sperduto e che è difficile da trovare, dove si entra dentro sembra di entrare in una reggia. Quindi cominciamo a considerare le trattorie di campagna, che da trattoria lentamente, perché al Pescatore era un'osteria, poi è diventata trattoria, ora è diventato ristorante. C'è questa crescita e in Italia ce ne sono tantissimi, quindi viva, diciamo, questa cucina molto particolare che è in campagna, perché ha dei vantaggi sicuramente rispetto alla città. Innanzitutto le materie prime, di solito le trattorie nascono laddove c'è qualcosa che si possa mangiare, si possa coltivare e si possa avere direttamente, se no andarlo a comprare si fanno chilometri e quindi si trova sul posto. E io comincerei, ne cito una che mi viene in mente sentendo la canzone di questa piccola trattoria dove si può leggere il giornale. Ah. La Brinca è un posto sperduto in Liguria, si chiama Campo di Nè ed è in provincia di Genova ed è a pochi chilometri dal mare di Lavagna e di Chiavari. E qui c'è un'intera famiglia che prepara un pesto come Dio comanda. Poche volte io ho mangiato il minestrone alla Ligure, perché il minestrone alla Ligure è un minestrone come si fa da tante altre parti, però ha l'aggiunta appunto del pesto. Del pesto. E poi ci sono tutti gli altri piatti della tradizione Ligure che si mangiano qui, veri, sono veramente veri. È in cima a un cucuzzolo questa, c'è una stradina che quando si arriva dice ma sono capitato, è giusto dove sono capitato oppure sto guardando no. Intanto Andrea in regia per sapere se lo conosce, perché di quelle parti lo conosce bene, sta facendo di sì con la testa Andrea Roccabella. Ah, sì. Sono contento, ma poi vi porto subito in Puglia. Perché in Puglia? Anche se in Puglia presto inizierà il turismo e tutti, cioè, abbiamo visto negli anni scorsi, la Puglia diciamo è ormai diventata una delle regioni leader. E c'è un posto in particolare che io raccomando, si chiama Antichi Sapori, anche questo in una località sperduta, Monte Grosso di Andria, e ovviamente Andria è un centro molto grosso, ma Monte Grosso bisogna trovarlo. E questa è una incredibile, è una trattoria di un personaggio che si chiama Pietro Zito, che è un grande ricercatore di erbe, di tutto quello che è appunto ancora diciamo selvatico in campagna. Però c'è da sapere una cosa di questa avventura, di questi Antichi Sapori, che anni fa un gruppo giapponese si è innamorato di questo posto, anche perché è molto particolare da vedersi, ha un orto incredibile ed è fatto in maniera ancora molto semplice, molto rudimentale anche la cucina. Ebbene, lo hanno ricostruito interamente in Giappone. Beh. Quindi pietra per pietra, pezzo per pezzo, è stato ricostruito perché si sono innamorati di questo posto e Pietro Zito, che è il patrono, ogni tanto deve andare in Giappone e stare qualche giorno. Io ho visto fare una pasta asciutta, una pasta con una trentina di erbe selvatiche da Pietro Zito, quindi è un posto veramente straordinario dove si mangia grano arso, ad esempio le orecchiette sono di grano arso fatte in casa. Poi c'è la ricotta di un pastore vicino, il pomodoro è nell'orto, quindi è tutto, quasi tutto, diciamo, autoprodotto. Ovviamente la carne no, perché la carne d'agnello non è del posto. E poi ancora in Puglia c'è un altro posto che si chiama Peppe Zullo a Orsara di Puglia, dove addirittura lui d'estate sposta la cucina in mezzo ai campi. Quindi in mezzo all'orto. Fantastico. E fa da mangiare lì direttamente, accogliendo poi la borragine, accogliendo tutto quello che sono verdure, ma qui si mangia soprattutto zuppa di lenticchie, si mangiano strascinati coi ceci, quindi una cucina molto che pare molto povera, però che oggi è stata completamente rivalutata dalla medicina e dalla scienza, ma è anche una cucina di grandissimo valore, quindi io ritengo che queste siano le vere cucine italiane, Cioè, mi piace perché dobbiamo... ho aperto il sito di Peppe Zullo che dice Simple Food for Intelligent People, cibo semplice per persone intelligenti, perfetto, perfetto. Sì, perché, sai perché l'ha messo in inglese? Perché lui è molto noto in... spesso va a fare le tournée negli Stati Uniti, per cui è un... eccellenza. È sicuramente un grandissimo anfitrione. Ma poi continuiamo ancora, vicino a Milano, ecco, siamo vicino a Milano, c'è a Proserpio, in provincia di Como, una trattoria che si chiama Inarca, è quasi in un bosco, cioè proprio è completamente isolata, è l'ultimo punto di una strada, e qui c'è la famiglia Colombo, in cucina, in sala, tutta la famiglia, e qui si mangia, io la cosa che ricordo sempre di questo posto, per rimanere all'autenticità, il gelato al Sambuco. Ecco, che è un gelato che mentre ne parlo lo sento ancora in bocca. Vabbè, poi è l'ora che insomma farebbe proprio piacere a quest'ora, sì. È proprio l'ora. E ora andiamo in provincia di Piacenza. Uh-huh. Andiamo ad Alseno di Cortina, non Cortina nel Veneto, Cortina in Emilia-Romagna, in provincia di Piacenza. C'è il ristorante Da Giovanni. Anche questo è un posto, sono quattro case completamente, diciamo, isolate dal resto dei paesi. E qui si mangia una cucina piacentina, piserei, fasoi soprattutto, ma si mangiano anche altre cose, perché anche questa è una di quelle cucine che è cresciuta nel tempo, faceva parte di un movimento che è Linea Italiana in Cucina degli anni 70, che proprio aveva come fine di rispettare il territorio e di valorizzare i prodotti del territorio. Sempre in Emilia. Ultima segnalazione perché siamo agli sgoccioli, cosa ci consigli? Ma vi porto in Veneto, vi porto... Trattoria dalla Rosa Alda a San Giorgio di Sant'Ambrogio, un borghetto veramente bellissimo della Valpolicella, dove posso consigliare le polpette alla brace. Di solito le polpette si mangiano col pomodoro ed altro, qui si mangiano polpette alla brace, e c'è una cantina davvero straordinaria che è un po' la storia della Valpolicella e dei vini della Valpolicella. Ne ho dimenticate tante, ne ritorneremo su questo argomento. Dobbiamo tornare su questo argomento perché ci stanno scrivendo anche gli ascoltatori al 349-238-6666. Irene, ad esempio, dice che è appena uscita da un'osteria San Vivaldo di Montaglione in Toscana ed è rispetto a tanti posti pretenziosi di città di serie A. Quindi, Davide, bene, torniamo perché le trattorie interessano, poi comincia a essere stagione di scampagnate, quindi sarà un argomento interessante. Non perdere gli appunti che ti sei fatto per questa puntata perché dobbiamo tornare anche sulle altre. Va bene, alla prossima. Grazie mille a Davide Paolini, al nostro gastronauta. Noi ci ritroviamo tra pochissimo perché adesso dobbiamo dare la linea al GR24 delle 16, poi abbiamo ancora un'ora con il sabato del villaggio, ancora parlando di città e di campagna, un sacco di argomenti interessanti, tra poco parleremo di cinema, ma avremo anche un grande ospite perché avremo al sabato del villaggio anche con il suo nuovo album Zucchero. Quindi state con noi, GR24 delle 16, poi ancora con il sabato del villaggio. Sono dappertutto, arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme perché questa è la seconda ora del sabato del villaggio, il sabato pomeriggio di Radio 24. Lo sapete, è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E poi nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Vi ricordo le coordinate per raggiungerci, il numero per gli sms 349-238-6666, numero che va benissimo anche per i vostri WhatsApp. È stato molto carino perché ne abbiamo ricevuto nella prima ora uno addirittura dal Brasile, perché appunto con WhatsApp si può arrivare un po' dappertutto. 349-238-6666. Se invece preferiste utilizzare Twitter, beh, molto semplice, il mio account è @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV se volete. E devo ringraziare Emanuele Dutto che mi ha appena mandato una foto di un gelato al sambuco e zenzero, perché con Davide Paolini che ci parlava di gelato al sambuco io ho confessato la mia voglia di merenda, magari di un po' di gelato appunto al sambuco. Mi accontenterò della foto perché siamo in diretta ancora per due ore. Comunque grazie Emanuele, su Twitter @MartaCagnola oppure cancelletto ISDV. Allora, cosa ascolteremo nella seconda ora? Beh, abbiamo l'appuntamento con Maria Luisa Pezzali, le passeggiate in città. Ve lo anticipo, un'iniziativa davvero davvero singolare, perché in questo sabato del villaggio, in cui stiamo un po' dibattendo così leggermente, lievemente, tra campagna e città, ebbene anche in città ci sono delle cose davvero singolari da scoprire, e lo faremo con Maria Luisa Pezzali. Poi il libro del momento, ma anche qui ispirazioni cittadine nello spazio dedicato ai libri di Alessandra Tedesco. Come vi ho detto poco fa, avremo, e io sono molto molto contenta, Zucchero con il suo nuovo album Black Cat. Ce ne sarà molto molto da scoprire, ma partiamo subito, beh, con le novità del fine settimana al cinema. Eccole qua. Arriva qualcosa. Quella porta! Ci farai uccidere tutti quanti! E questo era un breve estratto da uno dei film che escono questo fine settimana al cinema. Abbiamo bisogno di tutti i consigli e gli sconsigli, e quindi abbiamo in studio Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao, ciao Marta. Qualche sconsiglio c'è purtroppo questa settimana, però ci sono 13 film, quindi c'è lo spazio per rifarsi. Statisticamente. Tutto sommato c'è. E devo dire che questo film invece è assolutamente un consiglio, questo 10 Cloverfield Lane, che è un indirizzo semplicemente di una strada di un'America rurale interna, nella quale si rifugia una ragazza che troviamo subito all'inizio del film piuttosto turbata. Si capisce che si sta lasciando col fidanzato, sono quelle robe sentimentali. Lei prende parte con la macchina e durante il viaggio ha un incidente, finisce in un burrone. La troviamo la mattina dopo, tutto questo succede nei primi 5 minuti, quindi non vi spiego niente di particolare, non spoileriamo. La ritroviamo la mattina dopo legata a un letto per terra, sembra una sorta di cella praticamente. Scopriremo che non è così, che c'è una persona che l'ha assicurata a quel palo e dice di averle rassicurato e assicurato la vita, cioè di averla salvata. Lo dice, sarà davvero così? Cos'è successo fuori? Perché non si può più andare fuori di lì? Perché questo bunker diventa una sorta di seconda casa dalla quale da una parte si vuol fuggire, dall'altra invece no? È interessante quest'anno intanto come i bunker siano diventati un po', certo, il set cinematografico. Pensate a Room, di cui si è parlato molto anche in chiave Oscar. E poi è interessante anche perché quella parola Cloverfield nel titolo riecheggia al Cloverfield del 2008. Certo, infatti ti volevo chiedere se c'entra qualcosa con l'altro film. C'entra per la produzione, c'entra perché si fa finta che quello che è accaduto, quello che sta accadendo fuori, che non viene mai nominato, ma lo scoprirete presto, è la stessa cosa che è accaduta in Cloverfield. Okay. E quindi lì c'era un'invasione aliena, ricorderete i lucertoloni, i gozzilloni, tutto era ripreso con una telecamera amatoriale. Qui il film è totalmente diverso, la storia che si racconta è un'altra, ma è come se la telecamera si fosse girata da un'altra parte degli Stati Uniti e avesse trovato un'altra storia che succede in quell'ambito. Ecco, tutto lì, è un filo molto labile, diciamo, rispetto, per chiamarlo spin-off o per chiamarlo, certo, in un certo modo, però è anche un modo interessante, no? Potrebbero farne mille a questo punto di film che hanno la parola Cloverfield dentro il titolo. Lo consigliamo a tutti quelli che amano il B-movie americano, il film di fantascienza, il disaster movie, ma anche quello un po' di bunker. Lo consigliamo a chi ama John Goodman, che è straordinario coprotagonista del film. Davvero non perdetevelo, perché è davvero straripante. Se non fosse così presto rispetto agli Oscar, sarebbe quasi da Oscar da non protagonista. Altri film in uscita questo fine settimana, Lui è tornato, e non è un bel tornare. Eh no, e Lui è tornato, se uno pensa solo al titolo, pensa a Lui, no? Quello con la L maiuscola, quello, ecco, in alto. Sì, no. Invece no, il Lui del titolo è Adolf Hitler, niente meno. E si capisce dalla locandina, perché c'è questo profilo. Assolutamente, un profilo che è diventato iconico, suo malgrado. Un libro con 2 milioni di copie vendute solo in Germania, alle spalle un grande successo editoriale internazionale, che racconta cosa accadrebbe se oggi tornasse, proprio ai nostri tempi, nella Berlino contemporanea, Adolf Hitler. Adolf Hitler che all'inizio tutti pensano essere una sorta di comparsa, un sosia, invece poi pian piano scoprono che non è così, ma il cuore del film è quello di raccontare la reazione dei media e soprattutto come la società mediatica come la nostra tende forse ad annacquare piuttosto che a enfatizzare il pericolo. Noi siamo convinti che, siccome ci parliamo spesso con Facebook, con internet, con le mail, con tutto, siamo sempre allerta. In realtà tutto questo forse ha annacquato la nostra sensibilità rispetto a certe cose. Tutto diventa spettacolo, tutto diventa elemento sul quale fare raccolta pubblicitaria o altro. Ecco, e questo è il vero tema del film. Ed è interessante, Marta, che la Germania dopo 70 anni riesca a ridere su Hitler. Questo era un passaggio che ancora mancava. Con il comunismo l'avevamo fatto, con Goodbye Lenin, eccetera. Certo. Invece questo rimaneva ovviamente il tema tabù su tutti. Stavolta il film è andato bene, soprattutto in Germania, e secondo me è una buona notizia. Qualcosa per ragazzi invece, se vogliamo portare i bambini al cinema, c'è qualcosa questa settimana? Sì, c'è un film ad animazione digitale americano che si intitola Fuga dal pianeta Terra, diretto da Carl Brunker, con un cast vocale che in America vede Brendan Fraser e Jessica Alba insieme a Sarah Jessica Parker. Una storia di invasione al contrario, di alieni che sono sulla Terra ma vogliono scappare, perché forse alla fine non è questo posto idilliaco come è stato dipinto. Un film che sicuramente non porta niente di nuovo, se pensiamo ai vari Planet 51, ai vari Monsters & Co. Anche qui c'è il... è stato detto un po' tutto, no? Però sicuramente è un family, i bambini si divertono, i mostriciattoli sono divertenti, sono simpatici. Sì, non cambia la storia di questo ramo dell'animazione, ma tutto sommato una visione in famiglia la vale. Franco, l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpura, invece noi ancora il prossimo sabato del villaggio. Ci sentiamo con tutte le 18 e con te sabato prossimo qui presenti. Il sabato del villaggio. E siccome una delle cose che amiamo maggiormente fare durante il fine settimana, quando finalmente ci possiamo rilassare, è leggere, apriamo al sabato del villaggio il nostro capitolo dei libri. Che non si può suonare, ma se sei un po' brillo ti fa il verso del mare, e se producesse una nota suonerebbe così. Con whisky, spuma, latte, birra e casse di soda, gli investigatori vanno ancora di moda e cercano una vaga risposta al bancone di un bar. Beh, questa musica ci riporta subito a una serie televisiva, una serie di film per la televisione che io ho amato molto, che sono andati in onda su Sky, che si chiamano I Delitti del Barlume. Chissà se stiamo parlando dei Delitti del Barlume con la nostra Alessandra Tedesco, non lo so, glielo chiediamo. Buongiorno Alessandra. Ma sei bravissima, potresti partecipare a Rischia Tutto. Rischia Tutto. Rischia Tutto. Me le so veramente tutte. Le sai veramente tutte. Beh, ogni volta che Marco Malvaldi pubblica un nuovo romanzo con protagonista, questi vecchietti del Barlume, questi vecchietti impiccioni che si impicciano appunto dei fatti della polizia, vogliono scoprire chi è che ha compiuto un delitto e così via, boom, fa il boom nelle classifiche, perché oltre ad avere uno, come dire, uno zoccolo duro di lettori che non aspetta altro che acquistare e leggere il suo libro, ogni volta riesce a conquistare sempre più lettori. Devo dire, io preferisco i libri alla serie TV, non mi ha fatto impazzire la serie TV. No, non ti è piaciuta tanto? No, soprattutto la prima serie non era... Secondo me sono più divertenti, cioè l'ironia dello scrittore di Marco Malvaldi si coglie molto di più nei libri, che sono tutti pubblicati da Sellerio. Vi faccio alcuni titoli: La briscola in 5, Il gioco delle tre carte, Il telefono senza fili, si coglie molto di più nel libro che non, secondo me, nella fiction. Quindi per me 1-0 per il libro. Ma mi era piaciuta anche la fiction, vedi, io sono per più su pari? Sì, pari 1-1, comunque fenomeno. Beh, fenomeno. Infatti l'ultimo romanzo si intitola La battaglia navale, appunto scritto da Marco Malvaldi, mm-hmm, pubblicato da Sellerio, strepitoso successo, è il libro di cui si sta parlando in questo momento. Allora, perché si intitola La battaglia navale? Cioè, ce lo spiega proprio un inciso del libro. Un lavoro di indagine vero sul campo è molto più simile alla battaglia navale. All'inizio spari alla cieca e non cogli niente, ma è fondamentale che tu ti ricordi dove hai sparato, perché anche il fatto che lì tu non abbia trovato nulla è un'informazione. Mi piace molto, questa metafora, bella, bella. Io invece pensavo che fossero i vecchietti a giocare alla battaglia navale al barlume, invece no. È una metafora dell'indagine. Sono in questo una ragazza caso, semplice, avevo pensato che fosse una cosa lo così. Lo so, e invece il nostro Marco Malvaldi, dico nostro perché insomma è nostro, lo facciamo nostro. A me piace tanto lui, sì. Ma sì, ma sai che io lo chiamo lo scrittore giovane perché la prima volta che l'ho incontrato, questo lo racconto sempre questo aneddoto, ero convinta, avendo letto solo i suoi libri, Sellerio, chissà perché lo accomunavo a Camilleri, mi aspettavo di vedere almeno un 70-80enne e ho visto che è più piccolo di me, quindi da quella volta lui è rimasto nel mio immaginario. Pensavi fosse uno dei vecchietti del barlume. Esattamente, ho identificato lo scrittore con il personaggio, come a volte succede. Vabbè, insomma, lui è sempre divertito e divertente quando scrive vecchietti del barlume, e allora, visto che è uno veramente molto simpatico, quando è venuto a trovarci qui a Radio 24 gli ho chiesto: senti, ma tu scrivi sempre dei vecchietti perché te lo chiede l'Europa? Sentiamo cosa ha risposto. È un duro sacrificio che va affrontato con la consapevolezza di svolgere un dovere sociale, perché io mi considero, come il mio maestro Giorgio Borzacchini, un lavoratore socialmente utile, essendo un umorista. L'umorismo è fondamentale. Assolutamente. Quindi, no, allora, la verità vera è che io mi diverto come un porco a scrivere i vecchietti del barlume, anche se diventa sempre più difficile trovare un plausibile pretesto per stempiare qualcuno sempre d'estate, sempre nello stesso posto, un anno dopo l'altro. È l'effetto Jessica Fletcher, esattamente. Quindi ho cambiato alcune cosine. Primo, ammazzo qualcuno, sì, ma in primavera. Il maggio, come si sa, ispira la vita e anche la sua fine. E soprattutto tento gattopardianamente di cambiare tutto affinché tutto resti com'è, perché il bello dei romanzi seriali, lo dico dal lettore, è trovare ogni volta, certo, quei personaggi. Sono rassicuranti anche ritrovare le stesse caratteristiche, cioè, ma i tuoi vecchietti non invecchiano mai? Allora sì, alcuni invecchiano in questa sede, uno di loro nel corso del romanzo va in pensione. Da un certo punto di vista, ecco, invecchiano fisicamente ma non invecchiano intellettualmente. Beh, che bella voce anche Marco Malvaldi. È anche un gran bel ragazzo, un gran bell'uomo. E tu me l'hai venuto a Radio 24 e me l'hai nascosto. Ebbene sì, ogni tanto faccio... mi nascondo i bei ragazzi quando arrivano a Radio 24. Ma non si fa così. Io avviso sempre le colleghe quando arrivano dei begli ospiti. No, ma sai, gli intellettuali sono molto riservati, sì. Poi lui è anche chimico nella vita. Sai che lui fa il ricercatore di chimica. Ho letto. Quindi, insomma... Non ci hai detto la trama? Beh, immagino uno dei delitti. Viene uccisa stavolta in primavera e non in estate una ragazza che ha un tatuaggio particolare, si scopre che è una badante ucraina, uh-huh. Tutti sospettano del marito della ragazza, ma sarà veramente lui o non sarà lui? I vecchietti saranno a scoprirlo. Libro consigliato a, visto che oggi stai parlando di città, campagna, io ti faccio il confronto fra città e paese di provincia. Allora, consigliato a chi ama la provincia, uh-huh. Vuole un giallo tranquillo, diciamo senza scene pulp. E vuole un mix di ironia toscana e mistero da risolvere. Mi piace. Passiamo al nostro tema, città contro campagna. Voglio andare a vivere in campagna. Non voglio andare a vivere in campagna, Marta Cagnola. Io non voglio andare a vivere in campagna. Io amo la città. città. Vuoi cantare la canzone di Toto Cutugno? Ah, non vuoi voglio andare il testo? A vivere in campagna, mi piace la città, va bene così? Ah, quindi tu assolutamente città, niente campagna? Assolutamente, in campagna ci posso stare 2 o 3 giorni per rilassarmi, riposarmi, leggermi dei libri magari, ma io voglio sentire il rumore della città, il ritmo della città, il rumore del tram, mi piacciono i negozi, mi piacciono i musei, mi piacciono i cinema, mi piace anche la confusione della gente, mi piacciono anche le persone che in metropolitana camminano a piedi sulle scale mobili. No, non ci posso credere. Allora, di solito io poi mi arrabbio perché abito un pochino fuori città. Tu sei dell'Interland. Sì, sì, ma neanche, un po' fuori Interland, ma sono in Brianza io. E ci sono i milanesi che per dire che una cosa è bella a Milano dicono: che bella, sembra neanche Milano. Ma come? Ma infatti io sono importata, capito? Io vengo dall'estero. Perché i milanesi quindi... dicono sempre: ma bello qua, bellissimo. Sembra no, no, io Milano. Sono a favore della città. Viva la città, abbasso la campagna. Soprattutto abbasso i cittadini che in città si portano galli e galline e li fanno cantare alle 4:50 del mattino pur non essendo in campagna. Esperienza di vita vissuta. Cioè, per un anno e mezzo sì, i miei vicini di casa avevano un gallo e delle galline nel loro cortile e tutte le mattine, giustamente il gallo, come natura vuole, cantava alle 4:50. Ma siamo in piena Milano, ma andate a vivere in campagna se volete sentire il gallo. Venite in campagna. Mi sento un po' gabber. Allora, quindi ci porti dei libri di città per questa volta? Sì, io ti porto dei libri di città per conoscere, per vivere le emozioni, il profumo, l'atmosfera delle città. Uno di cui avevamo parlato tempo fa, anche forse prima di Natale, però mi piace ricordarlo, New York Stories, a cura di Paolo Cognetti, pubblicato da Einaudi. Non sono parole di Cognetti, ma lui ha raccolto 22 racconti di scrittori del Novecento che in alcuni casi non sono americani, ma che comunque conoscevano bene la città. Non so, c'è Francis Scott Fitzgerald, Dorothy Parker, Henry Miller, Mario Soldati che parla degli immigrati. Ah, io, il mio amato Mario Soldati. Che parla meraviglia. Degli immigrati, come mio nonno, per esempio, Truman Capote, Don DeLillo, David Levitt, Nathan Englander. Insomma, c'è veramente un insieme di racconti che ti fanno percepire la stranezza, la bellezza, l'originalità, il mix di New York che non è l'America. Vero, New York è una storia a sé. Ancora libri sulle città? Allora, ho scelto poi 2 città italiane. Napoli. Napoli, secondo me, è molto ben descritta innanzitutto da tanti scrittori, perché è un periodo in cui gli scrittori napoletani vanno molto. Mi viene in mente Lorenzo Marone, Stefano Piedimonte, così. Però quello che secondo me la identifica al meglio è Maurizio De Giovanni, perché con la serie dei gialli del commissario Ricciardi ci fa vedere la Napoli del ventennio fascista. E invece con la serie dell'ispettore Lo Iacono, per intenderci i bastardi di Pizzo Falcone, ci fa vedere la Napoli attuale, quindi problemi, criminalità e intrighi completamente diversi fra il periodo del fascismo e il periodo attuale, quindi un bel ritratto, un bello spaccato di Napoli ci è dato sempre da Maurizio De Giovanni. E poi lui è molto simpatico, perché lui l'ho conosciuto una volta, l'ho intervistato grazie a te, è veramente simpatico. Ebbene sì, mi devi un'intervista simpatica allora, Marta Cagnola. È vero. E per ultimo ho scelto Milano, vabbè, la nostra città, almeno quella nella quale viviamo, Gli ultimi ragazzi del secolo, romanzo scritto da Alessandro Bertante, pubblicato da Giunti. In realtà descrive 2 città, da una parte la Sarajevo del 1996 dopo la guerra, perché certo, c'è questo gruppo di ragazzi cresciuti, giovani negli anni 80, che vanno a fare un viaggio a Sarajevo e ricordano la loro gioventù negli anni 80, insomma quelli della Milano da bere, in cui loro in realtà erano assolutamente ai margini, vivevano in periferia, vivevano la realtà della droga, vivevano la realtà che era esattamente il contrario della Milano da bere. Quindi per avere uno spaccato di Milano, della Milano degli anni 80, raccontata da chi l'ha vissuto, Alessandro Bertante, Gli ultimi ragazzi del secolo, Giunti. Bello, mi incuriosisce molto, solo che ogni volta che facciamo l'appuntamento dei libri tutti i sabati poi mi viene voglia di leggere qualcosa e sai, ho iniziato in campagna. Sì, ho iniziato la scuola cattolica, Però 1300 pagine, il prossimo vincitore del premio Strega. Però bello, guarda, mi sta conquistando, da leggere poco alla volta mi sta conquistando, mi piace tantissimo. Ho bisogno di una settimana di campagna. Sì, assolutamente. Per leggerlo. Un ultimo consiglio, Il cacciatore di libri, Alessandra. E come sempre il sabato alle 6:30 del mattino, per chi si sveglia presto come il gallo di campagna, oppure alle 22, ma come sempre il podcast per chi lo vuole ascoltare a qualsiasi ora. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Baci. Il sabato del villaggio. E intanto vi ricordo le nostre coordinate 349-238-6666 per gli sms e per i whatsapp. Il mio account di Twitter è @MartaCagnola. Adesso retweeto subito Alessandra Tedesco, che sta twittando orora l'elenco dei libri di cui abbiamo appena parlato. Vi do anche il suo account di Twitter, che è @AleTeddina. Ecco qua, così avete anche l'elenco dei libri di cui abbiamo parlato ora al Sabato del Villaggio. Adesso però è il tempo di aprire un'altra finestra, sempre tra campagna e città. In questo sabato pomeriggio è il momento di parlare di consumi. Attenta, fermate! Fatemi salire! Guiderò io. Guarda qui che macello, tutti i cocomberi mi sono rovinato. Beh, e chi non si ricorda di questo film straordinario, Vacanze Romane? Quindi ho l'impressione che stiamo per andare a fare un giro per Roma, credo, probabilmente. Lo chiediamo subito a Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Roma, ma non solo. Chi non avrebbe voluto essere a bordo di quella Vespa, insomma? Io subito. Devo confessarti che io ho avuto un fidanzato per molti anni a Roma quando ero ragazza e mi facevo sempre portare in giro sognando di essere un po' Audrey. Ma non ci assomiglio neanche. Beh, io l'ho dovuto vedere da piccola svariate volte perché mia madre era una fan sfegatata di Gregory Peck. Anche mia mamma. sì, deve essere stato un grande mito qualche annetto fa. Quindi deduco a questo punto tra città e campagna, città. Sì, perché quando tu mi hai dato il tema, per così dire, Marta, città e campagna, allora ci ho pensato e mi è venuta in mente un'iniziativa di cui ho già parlato in Essere Avere, ma nel frattempo è cresciuta, ha attirato sempre più attenzione perché è veramente un'iniziativa singolare. Si chiama Jane's Walk, la passeggiata di Jane, e tra pochissimo sveliamo chi è questa Jane. In pratica si tiene domani in contemporanea in 189 città nel mondo. In Italia ad esempio ci sono Milano, Torino, Bologna, Napoli, Firenze, Roma, ma anche centri più piccoli. L'elenco completo è su janeswalk.org. Si tratta di passeggiate collettive alla scoperta degli angoli nascosti delle città. Si scoprono boschi segreti, quindi scorci di natura, ecco perché mi è venuta in mente, di campagna nascosti nelle città, oppure pezzi di storia poco conosciuti. Ma chi è questa Io Jane? Ho aperto il sito, mi dice intanto let's get walking, esatto. Cioè camminiamo, e mi dice e mi chiede di cercare una città. Prova. Allora facciamo intanto Italia. Italy. E intanto diciamo chi è questa Jane. È un'antropologa, autrice, attivista statunitense, Jane Jacobs. Ha speso gran parte della sua vita, è morta a 80 anni nel 2006, battendosi per uno sviluppo delle città a misura d'uomo. L'evento è nato un anno dopo la sua morte, cioè nel 2007, appunto in memoria di Jane, ispirandosi proprio alla sua filosofia per guardare con occhi diversi le città in cui viviamo. Le passeggiate sono gratuite e già ci piacciono. Ci piace tantissimo. Aperte a tutti e condotte da volontari. Quindi gente del posto che si offre, conoscendo bene un quartiere o magari un percorso, un tragitto particolare in città. Ecco perché Gregory Peck, Marta, come citazione in una guida perfetta romana era perfetto. Capofila dell'edizione italiana è Milano, perché si è già organizzata da tempo e quindi propone molte passeggiate. Ad organizzarle c'è Sara Marder, l'abbiamo intervistata, ecco che cosa ci ha detto. Questa è la terza edizione a Milano e sicuramente è l'edizione in cui inizia a prendere piede, perché è più grande. Abbiamo 10 passeggiate in molti angoli direi interessanti della città, varie realtà anche sociali attive sul territorio si sono offerte loro per condurre delle passeggiate. Quindi ad esempio abbiamo le giardiniere che sono attive a Piazza d'Armi e anche il Comitato La Goccia, loro offriranno delle passeggiate nei rispettivi luoghi in tema del verde da tutelare. Poi abbiamo il gruppo FAS C'è Vita attorno ai binari, che farà una passeggiata in tema di rigenerazione urbana vicino alla, alla stazione centrale dove ci sono i magazzini raccordati. Amici del Monumentale, che offrono due passeggiate per far conoscere il patrimonio del cimitero. Poi abbiamo anche su tema di agricoltura urbana. Quindi è proprio, io trovo, una bella mappatura, volendo, umana e sociale della città. E quello che ci tengo a dire è che non sono tour guidati, sono fatti appositamente per coinvolgere la cittadinanza e diventa una conversazione, no? Certo, c'è una persona o più persone che conducono, però non sono loro che monopolizzano la conversazione, cioè in realtà deve crearsi un dialogo, tutti passeggiano insieme, osservano il luogo, condividono le loro osservazioni, i loro spunti, eccetera. È una forma diversa di partecipazione e di conoscere la propria città. Le città saranno sempre più protagoniste nel futuro. Gli studiosi ci dicono che nel 2050, ad esempio, il 66% della popolazione mondiale vivrà nei centri urbani. Quanto è importante renderli a misura d'uomo? Ma io penso che sia cruciale, e tutte queste cose a cui pensava Jane Jacobs 50 anni fa, cioè adesso iniziamo a renderci conto proprio della validità di questo ragionamento. Che bella questa figura di Jane Jacobs. Tra l'altro stavo guardando nel sito, perché appunto mi sono messa a cercare, cioè non ci sono solo grandi città, ma c'è anche Viterbo. Cioè sì, domani ci si trova, domani pomeriggio a Viterbo, e si fa una passeggiata per Viterbo. Bello, bello quello, insomma, scoprire veramente tutte le varie dimensioni del vivere in città o nei piccoli e grandi centri. Ci sono le pagine Facebook dedicate, quindi Jane's Walk Milan, Jane's Walk Rome, dove si trovano informazioni aggiuntive. È un'iniziativa che mi piace veramente molto, Marta, perché trovo che interpreti in modo diverso la rinnovata voglia di condivisione e di partecipazione che si respira oggi nelle città, anche in una grande città come Milano. Penso ad esempio ad un fenomeno come quello delle social streets, cioè le comunità online di vicini di casa. Tu ce l'hai la tua, Marta? No, perché io abito in campagna e i miei vicini di casa li conosco tutti di persona. Invece io quelli del mio quartiere non li conosco tutti, però la pagina Facebook della mia social street mi aiuta moltissimo. Ci sono tante iniziative, magari c'è chi trova un mazzo di chiavi e lo segnala e poi così viene ritrovato, oppure è in cerca di una babysitter. Bello, vuole scambiare, piace, regalare, sì, barattare, sì, sì, degli oggetti. Insomma, la trovo veramente una grande iniziativa. E poi un altro fenomeno collegato a questa tendenza sono le molte piattaforme della sharing economy che propongono appunto tour guidati nelle città, guidati dagli abitanti del posto. La prima è stato un fenomeno internazionale nato negli Stati Uniti, se ne è parlato molto, Vayable.com, nata negli Stati Uniti ma già arrivata anche in Italia. Ho provato a digitare prima alcune città, ci sono tutte, ci sono anche le principali destinazioni turistiche appetibili per gli americani, pensiamo, non so, Siena, Pisa, Firenze, insomma, certo, ci sono tutte nell'offerta. Però poi ci sono anche le versioni italiane, quelle nate in Italia, che propongono appunto questa tipologia di tour nelle città. GuideMeRight.com e poi NativeCicerone.com, fantastico, Zestrip.it, curiosity.com. poi magari Marta, so che tu sì, su Twitter le posterò su Twitter, esatto, perché sono tante, e poi arrivano i messaggi degli ascoltatori che vogliono saperle, allora già preparo un tweet mentre tu le dici. Ci sono anche le versioni un po' più locali, tourengo.it ad esempio è solo per la Puglia, e poi piaceremilano.it, che è nato in occasione di Expo ma continua a proporre, insomma, questa tipologia di turismo a contatto con gli abitanti del luogo. Bello, mi piace, anche perché stavo curiosando, ad esempio ci sono dei quartieri e delle zone di Milano o di Roma che non sono scontate. A Roma si può andare a visitare il Casilino, a parte San Lorenzo ci si va di solito, ma Porta San Pancrazio, appunto, oppure la Bovisa a Milano. È bello, bello, devono esserci proprio gli abitanti del luogo che ti portano a fare un giro. Mi piace molto. È un po' il domani sogno pomeriggio. o domani mattina. È un po' il sogno di tutti quello che si ha quando si fa un viaggio, si sceglie una destinazione, quello di avere un amico in loco che ci guida per gli angoli nascosti, perché poi sono le esperienze spesso che si ricordano di più, no? Un pomeriggio particolare più che magari insomma quello che puoi trovare su tutte le guide turistiche, sulle cartoline più famose. Vero, mi piace un sacco. Devo dire, magari appunto adesso ci attrezziamo l'anno prossimo, organizziamo una passeggiata noi. Sì. Dai, organizziamo una passeggiata, non lo so, anche qua in zona, adesso le 24 ore, alla scoperta delle bellezze della zona. Non lo so, ci penseremo. Maria Luisa, l'appuntamento invece con Essere Avere domani sera. Domani alle 22 come sempre. Ciao, dopo le passeggiate, esatto, di James Walk. Domani sera, ciao Maria Luisa. Appena metto piede nel locale, scoppia la bomba, man. Tu stai a guardare qua, scoppia la bomba, man. Se non mi fanno entrare, tu inizi a contare, tipo tic, tac, tac. Scoppia la bomba, la senti tic, tac, tac. Scoppia la bomba, la senti tic, tac, tac. Scoppia la bomba, la senti tic, tac, tac. Scoppia la bomba, la senti tic, tac, tac. Scoppia la bomba, la senti. Non lo senti il rimbombo? Non lo senti sto timer? Vengo dall'altro mondo, rap fantasma, slimer. Ora è rapper. Allora, lui è Mondo Marcio e lo ascolteremo domattina dopo il giornale radio delle 8 a 140 caratteri. Mi faccio un po' di autopromozione, ma lui è veramente un personaggio davvero interessante, un ragazzo simpatico, oltre che molto molto bello. Ieri ho pubblicato un'immagine su Instagram perché è veramente un pezzo di figliolo. Vabbè, ma alla radio non si vede, che cosa vi racconto? Oltre ad essere molto bello, è un ragazzo molto molto in gamba e mi piace sempre andare un po' alla scoperta dell'hip hop, perché insomma non è scontato che tutti noi a Radio 24, tutti gli ascoltatori di Radio 24 lo conoscano e lo frequentino. Allora, Mondo Marcio, domani mattina dopo il giornale radio delle 8 a 140 caratteri, per parlare di cosa? Beh, per parlare della freschezza del Marcio, che è il suo album che è uscito poche settimane fa ma che è tornato di attualità perché si è parlato in questi giorni sui giornali del fatto che questi nuovi rapper comincino davvero a frequentare anche la musica suonata, ed è molto molto interessante, ma anche perché ha un progetto nuovo che ci ha raccontato in anteprima, perché noi l'abbiamo incontrato proprio nel giorno in cui è uscito il suo nuovo progetto, che è un progetto internazionale realizzato negli Stati Uniti con The Keen One, si intitola Loud Featuring, cioè lui ha collaborato però con il nome d'arte di Marcello, perché Mondo Marcio negli Stati Uniti non lo sanno pronunciare, ma Marcello è molto più facile per gli Stati Uniti e per gli americani. Allora, abbiamo una brevissima anticipazione del nostro incontro con Mondo Marcio. Come al parco sono sempre al top, batto la mano come al parroco, il mercato. Ho fatto questa collaborazione con The Keen One, questa artista di Los Angeles che adesso lavora più sulla East Coast, stando a Philadelphia, e ci siamo conosciuti 2 anni fa, abbiamo iniziato a collaborare. Appunto oggi è uscito il primo singolo, soltanto che quando dicevo il mio nome d'arte, Mondo Marcio in inglese, essendoci la R arrotolata, Marcello è diventato il nome d'arte momentaneo, magari lo tengo, magari no, vediamo. È vero che stai scrivendo un romanzo o che hai scritto un romanzo? No, in realtà ho scritto un romanzo, e in realtà ho scritto un romanzo circa 2 anni fa. L'ho poi aggiustato un po' nel tempo, però l'ho scritto circa 2 anni fa perché avevo una più o meno leggera insonnia la notte, quindi dopo che avevo finito tutti i videogiochi che avevo in casa e dopo che avevo fumato tutte le sigarette che avevo in casa, ho detto: cosa posso fare? Scriviamo un libro su Milano, perché no? E da lì è nata La Città Fantasma. La Città Fantasma è narrativa, diciamo che è circa un noir pseudo futuristico dove la storia è ambientata a Nuova Milano. È Nuova Milano perché la vecchia Milano è stata sommersa dall'acqua, e tutto questo è una metafora della crisi, nel senso la crisi che è scoppiata internazionalmente, soltanto che in Italia è rimasta, quantomeno mentalmente, perché i soldi ci sono in Italia, però mentalmente l'italiano è rimasto lì, in quello stato mentale di c'è crisi, non si muove niente. E quindi mi sembrava interessante vedere come avrebbero reagito i personaggi a questa situazione di crisi metaforizzata con l'inondazione della città. Anche a Napoli dicono: ma quando cazzo si frisce, sto senza pensieri, più fresco oggi di ieri, quando cambiavo il gioco, fra tu dove cazzo eri? Appena metto piede nel locale, scoppia la bomba, man. Tu stai a guardare qua, scoppia la bomba, man. Se non mi fanno entrare, tu inizi a contare, tipo te. scoppia la bomba, la senti. E questo è Mondo Marcio, lo ascolteremo domattina dopo il giornale radio delle 8 a 140 caratteri, però un breve assaggio anche perché campagna e città, vedete, c'entrava anche questo. Il suo romanzo, che dovrebbe uscire prima dell'estate, è ambientato in questa futuristica Milano. Ma ancora musica, tra poco, nell'ultimo spicchio del sabato del villaggio, dopo il traffico. Il sabato del villaggio. Partigiano Reggiano, ed è il nuovo singolo di Zucchero, il nuovo singolo con il quale ha lanciato un nuovo album, uscito davvero in tutto il mondo, perché sono tre versioni internazionali, una versione in italiano, una versione con delle traduzioni in inglese, ma c'è anche una versione sudamericana, una versione asiatica con dei produttori internazionali, realizzato tra la campagna e la città, ovviamente la sua campagna, la sua lunigiana, e le città negli Stati Uniti, perché lui vive e lavora tanto negli Stati Uniti, ma anche le campagne del sud degli Stati Uniti che gli hanno dato tantissime ispirazioni. Cosa si respira in questo Partigiano Reggiano? Tante cose, tante ispirazioni appunto, ma soprattutto tanta aria di libertà e di semplicità. Sono due punti cardini per Zucchero che dovrebbero andare insieme. Beh, ce l'ha spiegato lui stesso, Zucchero: libertà e semplicità. Dovrebbero, sarebbe bello. Purtroppo per ottenere la libertà non è così semplice a volte, però libertà e semplicità sì, sono quelle, è la sensazione che volevo trasmettere, soprattutto anche il fatto di non essere legato a degli schemi che ultimamente nei format, insomma, dei dischi che sentiamo in giro o dei brani che sentiamo in giro, insomma, evadere un po' da questo, essere un po' più libero, come hai detto, nello scrivere, nel ricercare i suoni, tenere dei brani più lunghi di 3 minuti e mezzo, mettere degli assoli di chitarra che ultimamente sembrano sempre tagliati, o comunque che non esistono, che non appaiono più, insomma, sì, libero e semplice, bene. C'è tanta campagna, ti ricordo, sai, amore mio di campagna, in questa terra di nebbia, gente di bocca buona, e poi c'è il panino al salame e la birra. C'è tanto delle mie radici, in questo, soprattutto in questo brano, ma anche in tutto l'album. Radici emiliane, della bassa, insomma, di gente. C'è un altro brano su Voci che dice voci di radici, di nebbie, di pioppi che parlano agli argini, che parlano ai matti, ecco. C'è il panino al salame, ovviamente, insomma, in tutti i miei album ci sono le radici. Un diamante, per esempio, in molti altri brani, quindi sono molto, molto profonde. E c'è il Partigiano Reggiano, certo. La voglia, il desiderio, il sogno di allevare dei piccoli partigiani come fossero Boy Scout. Mi piacerebbe fare lo zio di questi partigiani, è una cosa bellissima. Ma sì, perché insomma, a una certa età è anche bello trasmettere dare delle iniezioni di coraggio, di autostima, dopo che tu hai vissuto, insomma, 60 anni, dovresti anche essere diventato un po' più saggio, no? Se no, qual è, dov'è il vantaggio di invecchiare se non di diventare un po' saggi? E mi piacerebbe dire, guardate che ci vogliono degli ideali per comuni, no? Che vi accomunano, per andare avanti, per sperare in un futuro migliore. Vi vedo sparpagliati, vi vedo ognuno presi dalle sue circolinette stanze. Invece metterli insieme, non ovviamente un piccolo esercito non armato, ecco, però con degli ideali forti, sì. Every man has got two cities he needs to be. The one he can touch and the one he can see. The one where a stranger's a friend. Every man has got one city of liberty. For me it's Paris, I love it. Every time I try to lose myself I seem to find the streets of surrender. C'è anche Dio in questo disco, non solo in Hey Lord, ma anche nella chiesa sulla collina c'è una chiesa che ci perdona. È un manifesto, è religiosità, che cos'è? No, io comunque sono cresciuto, come ben sai, tra la cooperativa del Partito Comunista e la chiesa dove andavo a fare il chierichetto per pagarmi le lezioni di organo. Quindi sono cresciuto tra sacro e profano, e anche adesso diciamo che sto lì tra il diavolo e l'acqua santa, non ho ancora bene la fede. In qualche modo c'è una spiritualità. Io per esempio vado spesso, quando sono in giro per il mondo, in chiese da solo, non durante la messa, e sto lì 20 minuti, mezz'ora, penso, medito sulle cose. E non sono mai stato contrario alla chiesetta di campagna, al prete di campagna genuino, diciamo, che aiuta i ragazzi a giocare a pallone, che gli costruisce il campo, insomma, che fa delle attività per stare insieme ai ragazzi, per insegnare le cose. Semmai sono stato contro le istituzioni ecclesiastiche, che sono un'altra cosa, la politica nella chiesa, che è un'altra cosa, ecco. Per cui la chiesetta di campagna da me è ben vista e benedetta, ecco. Ho un'ultima curiosità, proprio tra sacro e profano, perché ci sono canzoni piene di sensualità e hai detto, finché c'ho sempre lo slempito, ma cos'è lo slempito? Beh, lo slempito è una parola che non è neanche un dialetto, perché lo dice, la prima volta che l'ho sentita l'ha detto un signore già anziano, che comunque suona la chitarra, fa un po' il menestrello lì dove vivo, suona nelle feste di paese, si chiama Bugelli, molto stimato e amato. E lui ogni tanto viene fuori con queste parole. Lo slempito è, quando gliel'ho chiesto, è diamoci una mossa, cioè coraggio e allegria, ecco, cioè, una reazione, capito? Non ragazzi, cosa succede? Oh, un po' di slempito, hai capito? E allora ti fa ridere. Ed era, in una parola sola puoi raccontare queste cose, capito? Quindi l'ho messa lì perché sapevo che mi avrebbero chiesto cosa vuol dire, ma per me suonava bene. Allora viva lo slempito, grazie. Esatto, prego. You're free, baby, baby. Free now and forever. It's Christmas time. You can't decide to forget or to remember. You're free. Questo è un grandissimo pezzo in Black Cat, che ha una storia molto particolare, si intitola SOS Streets of Surrender ed è stata scritta da Zucchero, ma il testo è di Bono, che era a Parigi nel momento degli attentati. Vi ricordate, il loro concerto era stato annullato per motivi di sicurezza. Ispirato dai fatti del Bataclan, ha scritto questa canzone che Zucchero ha detto non è stata per lui facile da cantare. E sapete cosa gli ha detto Bono? Beh, canta le strofe senza pensare come farebbe Zucchero. E questa è la davvero bellissima Streets of Surrender, tra l'altro suonata da un certo Mark Knopfler. È un altro piuttosto bravo, ragazzi. Vabbè, bellissimo Black Cat, l'album di Zucchero, contentissima di averlo incontrato. Noi ci ritroviamo tra poco dopo il giornale radio, sarà il momento di Radio Tube.